che non ci può più mettere mano agli apparati. Qual è il problema? Perché gli apparecchi SMD, io ne ho alcuni, ma vanno un bijou. Ok, signori, io vi devo lasciare, dai, ciao Natalino, ciao Antonio, riserva, ci sentiamo le prossime. Comincio a trinciarmi, mi devo ancora lavare, tutto è... alle prossime, ciao a tutti, ciao, voi Natali. Ciao Marco, adesso di mangiare e vi stavo ascoltando nel frattempo, capito? Ciao Antonio, anche a te, io me ne passo in quei venti perché me ne vado a farmi un riposino, là. Ciao a tutti, anche a quelli che stanno ascoltando. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Azzardo! Azzardo! Aspetta, sto facendo benissimo, aspetta. sono io, c'ho altro baracchino acceso, dimmi. Ti do una mano io a piazzarla, cazzarola, ordinala, te la do io una mano, mi chiami un sabato, no, toccare che se con la 25 mi vado solo il sabato, la domenica, un venerdì, magari, un giovedì che sei libero, un attimino saliamo e la piazziamo. Tanto sei in alto, non lo so, secondo me ti conviene prendere quella Lemme che ha preso Giuseppe e è tornato, e vai sul sicuro. Poi dico la cosa, fa TV e quell'antenna lì, boh, non lo so. Prendi, cosa ne so, quello che dici, cioè, quello che piace a te. Poi se vedono questa antenna grande sul tetto, tu dici che è il tuo pisellino. E allora metti quello che ti senti di fare, secondo me come, visto che ci sei, facci in cortape, non sbagli. Sì, detto, più gusto, c'è, cioè, più goduria. Io dico che ti dai mattana con Riccardino invece di Vizzini. Aiuta, dai, fallo, tanto tu lo so che non entri, ti lascio, ci stai entrando perché vai, hai il tempo, poi sparisci come hai sempre fatto e entri dopo 10 anni. Vabbè, tanto quando ti scivolo dalle 5:30 di mattina alle 6, rientravo la sera alle 10. Sciolto, roba, e mica io avevo voglia di entrare a baracchino, ma manco no. Ciao, Natali. Ciao. C'era vecchie connessioni, Riccardino, boh. Ascolta a me, l'hai provato tutto e per tutto quella roba là? Appunto, quella roba là? Dico, l'hai provata in tutto e per tutto? Sì, l'ho provato e funziona. Vabbè, funziona per forza. Andare, dai. Io sono un po' indeciso adesso, se prendermi quello là, non lo so. Su quei 350 euro, mi sono di più punte. Secondo me l'avevano sequestrato quello lì. Perché non era marcato CE, ma ti immagini? Quelli lì non sono marcati CE, mi puoi dai. Non so, Natali, vabbè, se vuoi fare. Oh, dimmi quando manco di radio, sono curioso, forse magari aspetta, che magari così, non lo so. Ma la batteria che si è accesa di botto. Vabbè, comunque c'ho la batteria nuova a casa della 25, quella della Dura, cioè da 9. Giovedì me la prendo. La contessa, non l'hai contessa. Sì che ce l'ho, è a 8 mi segna, 8 e 2, 8 e 3 mi pare, boh. Magari se ne fare, io devo essere via. Sono da canto, dai. Chiave, prete, chiave. Hai un piccolo di modulazione? Sono un Harry Smith, è vero. No, già si vede che si muovono le barrette qua. Insomma, si muovono le barrette, mi. Quando se uno c'ha i picchi di modulazione. Tu lui no, che mi qua. Qua sta la radio, che sta sta. Sì, sarà da regolare un po' lo Smith qua, Natali, da poco a poco. Già va bene. E non c'è neanche trimmer qua per poter regolare la LC, non è nulla. Ah vabbè, io già ti ascolto, dai, non è che già ti ascolto, siamo vicini. Ma io l'ho messo, adesso domani mattina ha smolto quei tappi, mi sa che è il carteggio già, boh, che fanno schifo quei tappi. Non c'è problema, guarda, mi smonti, ti passi la cassa da pure i primi pini e poi per il tempo. Sì, infatti. Se Antonio all'ascolto, il tipo degli amplificatori mi ha detto che il prezzo è uguale, alla fine sempre, se ne prendi due è sempre quella la spesa di spedizione, perciò è metà e metà, dai. Ecco come l'ho rimborsato a Talibu, mi ci metto lo squeccio, ecco qua. Non mi ha detto che ti rimborsavano oggi. Però questo qua non ce l'ha ai 10 kHz. C'è qualcuno all'11. Non lo so. Quando mi rimborseranno? Mi deve dare 46 euro. Non so pochi, no? Cosa ti risenti? Non ce li hai 10 kHz? No, questo no. Le pare strano. No, non c'è la tastiera 10, c'è il canale 9. Canale d'emergenza. Dovresti chiedere a Marco, però dovrebbe avere 10 kHz. kHz di spostamento, se no come fai ad andare nei canali alfa? Matto, hai capito quello che ti ho detto prima? Per quanto riguarda gli amplificatori, la spedizione è uguale, sempre quella cifra lì, che sia per uno, che sia per due, è sempre quella. 6 euro e spiccioli, sempre due amplificatori, 6 euro e spiccioli. Perciò invece di essere, quanto era? 66, boh, se non mi ricordo, vabbè. E 63. 120 più 0, forza bravo, diviso 2. Mi sono mancato di radio, boh. Ho detto 120 diviso 2 più vabbè 690, facciamo 120, 127 diviso 2, 50 a testa, sì. Sì, ma sono uguali a tu. Infatti, sto mancando il radio. Boh, che strano. Oh, oh, oh. Adesso? Aspetta, sono curioso, ma c'è qualche filo staccato. Guarda un po', provando il cavo, prova, prova, guarda un po'. Prova, prova, prova, prova. Ah ok, oh, oh, prova, prova, prova, prova, prova. Potete mettere a 5, prova, prova, prova. E vabbè, là, Gianni. Ehi, metti il CRC nel potenziometro, l'ho fatto io e non esce più male. Ehi, allora, ma non la giugana va, non la giugana va, credetemi. Non la giugana, molti di quanti erano nonna, non la giugana. Bravo, però lo stesso difetto che ti ha fatto a me, che ha fatto a me, ha fatto a te. Ehi, ehi, ehi, boh, sa la PTT, adesso, boh. Che ne sei, che ne sei? Ma non ne bevi più qua, lo stai usando? Sì. Cazzo, con le 4009. Con 3009, sì, sì. Ma il tuo ce l'ha lo spostamento dei canali, sì o no? Sì, sì. Ah, ha spostato il jumper. Sì, sì, ce l'ha. C'ha i bassi, gli alti, dimmi. È uguale al mio, e là, ce l'hai davanti? K. Allora c'è il tasto RF, SVR, CAL, poi c'è NBN, LETON, ZONE, I LOVE, poi c'è il tastino dei canali emergenza, là, canale 9. Aspetta che non sono guardato. Aspetta, mando la foto, là, faccio prima. Dai, è così, Luca, non riguardo, guardate, sono tutti così, uguali a quelli che mi hai detto. Ehi, ha dato le buone a tu un rimborso dei B. Cazzarola, boh, per carità, va. Vabbè, lei mi serve in urgenti, però. Questa cosa. Oh, oh. Si è graffiato. Ah. Cazzarola. Ma si sente alternata la parte vostra? No, qua no. Ok, da. Va bene, va bene. Ehi, va bene, che tu dico ti trovi con graffi, ma gli avviare i graffi sopra. Altro che si vedono, ecco, ci devi mettere l'occhio. E no, è stato un buon culucci, in culo a te. Costa 4,90 euro, mi fa. Seria. Io lo compro da bricco. Cazzardo, non è cusino. Ma però. Luca, se ci abbiamo il posto, te lo vernicio io, va. Io la mano ce l'ho per nicciare. Ah, ti mando la foto, aspetta, io sto parlando. Due metri non si vedono, cazzo non si vedono. Allora, doppio room, casetta, doppio smitter. Io praticamente gli ho tolto il nylon che c'avevano sopra con l'adesivo, c'avevano il nylon adesivo sopra. No, sono verniciati, però sopra c'è questa plastica adesiva, io gliel'ho tolta, è un po'. Quanto non mi piace, non ne può fare. Sei digrinata, allora è come questo qua. Questo qui è lo stesso così, digrinata, a puri rimane, dai. Cazzo, tu, non lo vedi, le foto non si vedi, beh, si vedini. E lui mi faceva un graffio. Cioè, se io vendo una cosa, dico non c'ho un graffio, non c'ho un graffio. Cazzo, non è che da voi da 50.000 graffi. Tu, là, Se mi dice che ci sono o che ci sta, vabbè. Ma se scrivi non va un graffio. Capito, si compra tu sì. Oh. Io quello si copre con la vernice, è leggero leggero, non è scaldato molto. Quello con la vernice lo copre, gli dai due passate e si copre. Non si uscì. Ho detto, non penso che gli dà più sì. Guarda, se non è molto scavato ce la facciamo a coprirlo, capito? Con la vernice. Ma sopra questa? Io senza fondo l'ho verniciato il garage, se tu lo vedi stiamo facendo dalla fabbrica. che non ci aveva nulla, gli ho dato una rinfrescata io, non era graffiato, solo che qualcuno ci appoggiava la tazzina del caffè e ci aveva il segno del caffè e non è venuto uscire manco con lo sglassatore, niente. E allora l'ho levigata per appena con la carta abrasiva, con la fina fina e tutto, dice tutto. Ecco, allora sì, se è molto scaldato, sì, ma se non è scaldato tanto, io l'ho sempre coperto con la piccola vernice. Se non è molto scaldato, se è scaldato un bel sì. Oh, Anto, ma che lampadina c'ha? Quella normale, il 3009, no? Te lo smettere. Giallina è questa. Luca, ma il tuo smitter come va? Bene, bene, bene, bene, proprio fluido. No, nel senso i segnali come li dà, è molto ristretto quei segnali. Eh sì. Praticamente tu mi stai arrivando 9:15. Tutti così sono, tutti così questi 3009, non li hanno registrati bene, regolati bene. Siamo stati in varia. No, gliela metto io l'importante. Adesso devo vedere in base ai watt che ho, cioè questo qua solito da 4 watt, vediamo un po', regolo in base ai watt di chi sta parlando, cioè se qua là facevo 11 watt mi arriva 9,15 e io magari con 4 watt mi arrivo 9,20, un esempio, è un casino, non ti si invasi? Vabbè, comunque dai, domani è una giugana di far nuda, chi non ha giugana. Zero Puglia. Ma l'hai regolato l'LC? Sì, l'ho messa a manetta, sì. Quella mia era già messa a manetta e anche il watt, la nuova 9 watt è messa. Ma gliel'hanno fatto dalla casa a lui, da dove gliel'hanno mandato, sicuramente. Ma so che non conviene, ma io ho creato a metterci le mani, mi gira le scatole, capito? Non mi piace, io non ne ho mai aperto a fare chi, anzi, quando c'era qualche cosa l'ho portato da te, che lo facevo fare, non mi piace a più. Non è a manetta, la sera 17 watt va questo qua. E ce l'aveva, come si chiama, Fabio, e mi ha detto che lo tirava sino a 17 watt. Così già è strozzato, non è che, però 5 watt va bene, va benissimo. Anche perché quando attacchi se no distorci. Ho fatto com'è la KP202 come Rosmetto, guarda che incrociati. Una cagata. Io volevo prendere Daiwa. Costa 150 euro. Lo so, un'altra musica. Però sto cercando l'801, non c'è più. C'è il 901 HP, però c'ha. Invece di avere il coso PL c'ha il coso N, così attacco N. Attacco N c'ha. E ci vogliono riduttori per usarlo con il PL. No, guarda, Luca, se c'ha l'attacco N bibanda, quello bibanda è. Ma ti hai parlato in due, cosa tu? Cioè, vedi, dai, va CN 901 VN, wattmetro VHF VHF, 140 525 MHz, 200 watt. Sì, questo qua è però il VN, l'ha capito dicendo, l'ha capito. Cioè, praticamente l'inglese è N. Banda, quelli che hanno l'attacco N, non è possibile che abbiano l'attacco N, quelli HF. Infatti, no, però c'è questo qua digitale carino, Watman Rosman digitale, se vuole power 1.6, fa tutto, fa questo qua 170 euro costa, VHF fa HF, VHF UHF. 170 euro questa vigliero, mi dai, va. Bisogna vedere se funziona bene. Infatti, che isua. HF ce la mattina. Lo so. Che me ne vado a riposare, va. Sentiamo più tardi, se ci si è. Ciao Natalia. Già, ma tu non sei contento di questo 3009? Io sì, mi ha fatto operare un po' all'inizio il microfono, ma del 3009 sono contento. Quale lo stai usando adesso? Eia. Ascolta, la lampadina com'è dello smite gialla, giallina? È un bianco sporco, è un bianco sporco. Quella è originale, ma lo puoi mettere anche blu, ci metti il led blu e è un bel bello. Sì, infatti, mi sa che mi assillo, ci metto il led blu, collet blu. Cosa stavo dicendo? E così già che non apri ti regoli lo Smith e tutto qua. Perché ci sono qualche cortezza da fare, però l'apparecchio va bene. Lo so. Lo saccio. Adesso vediamo. Tu con quello sei adesso? Sì, 3009, sì. Sempre con Typhon, sì. Vabbè, Typhon c'ha più cose, c'ha canali alfa, tante cose, lo Smith, il DP lo puoi disattivare, tante cose. Ora, la differenza, questo qua funziona il coso SVR, là. Cioè, sta segnando 1 e 2, là, il stazionario. Sì. È abbastanza bello, a me piace. Io l'ho tolto tutto il nylon perché lo rendeva opaco, non mi piaceva con il nylon, se no è una protezione. Cosa avevate cucinato tanto? Però la facevamo spesso d'estate. L'altra volta l'ha fatta Marina con le zucchine. Vabbè, buon pranzo. Ma quelli trasparenti? Trasquillato. No, io oggi mi sono fatto il pesce spada alla pizza, io la povera volta. Anche. C'è questo qua, l'SX20, bellino, l'ho lasciato anche incrociati. Bellino. E vabbè, questi rossi metti sono diametri di balle. Non mi piace la merda che incrociate, mi piace più avere il vatto metto da una parte e lo metto dall'altra. Adesso a vedere, c'è il 201 e bellino lo stesso, qua fa 5, 10, no, 5, 20 e 1000 watt. 5, 20, 5, 20, 200 e 1000 watt. Cavolo, meno male per la registrazione come esce, come c'è bene esce. Finalmente ho trovato la capsula d'acqua. Questo microfono l'abbiamo fatto rinascere tutti e due, tu le vuoi sulle cose, io le aggiungo sulla capsula e non è più come prima, in più l'ho tutto pitturato con i punti, visto con gli angolini che ci aveva, gli ho passato, come ti ho detto, lo stecchino, non si vede nulla, è nuovo. Un'altra musica. E allora canta, prima non cantava, prima era tappato. E vabbè, tutto bene ciò che finisce bene, e non c'ho manco il posto per metterlo, lo sai. Ma io cosa ho fatto? Ho tolto il computer e ripiamo quello che esce fuori, per il computer ci appoggio il microfono, lo tolgo fuori, poi quando lo devo mettere a posto lo metto dentro il mobile. Adesso ne ho 1, 2, 3, 4 baracchini ciò. Ieri ho fatto un lavoro per niente, ho spostato tutto quanto, ho abbassato i ripiani, ci stavano troppo stretti gli apparati, che non mi piaceva. Poi ho messo il microfono a fianco all'apparecchio, al Cobra, il MBQ5, perché poi volete il coso, quello che ho fatto io, il microfono, da due microfoni ho fatto uno, e lo volevo mettere qua e poi questo qui metterlo giù col Cobra e invece col Cobra fruscia. Vabbè là, e tu i graffi ne ha già, graffietti ne ha sopra. Non ho capito, no, non ne ha dei graffi, c'aveva la carta, ti ho detto, la carta adesiva sopra. Io come l'ho tolta la carta adesiva, apparecchio era nuovo, tutto perfetto. Ehi, vabbè, ma quello non è nulla, le dai a Roberto, te li fa come ci deve, non devi comprare, non porta nulla, le dai a lui, te li fa fare bene. Vabbè, ma se ci può pagare due, non è che fatti così gratis. Vabbè, non devi fare col telefono, mi vuoi d'accordo. Vabbè, lascia perdere, quelli del telefono li do a Claudio, me li sistema lui, ha detto. Io, guarda, se vuoi te lo vernicio io, però, cazzo, in casa non lo posso usarlo, mi sfrutta tutto, io questo prima lo faccio per il terrazzo, ma vola la vernice, ti riempie tutta la casa. No, ti preoccupa già. Già lo si fremo e la mano si fa nuda che non ha giugana. Mi sono di nuovo infognato con questo cazzo di baracchini qua. Cazzo, guarda, smontare, saldare, tutto come prima. Ma tanto adesso sta iniziando il caldo già, me ne vado al mare, non so quanto cadere i baracchini. Sì, a me è sempre piaciuto, anche se ho computer, tutte queste cose, telefono, però la macchina mi è sempre piaciuto. Però non posso usare sempre attaccato, è un gioco di balle, dai. La Sabini. Allora, tu visto, ecco, la vittina che mi hai messo tua, l'ho persa perché deve essere la larga. Ne è uscita e sono dovuto andare a comprare un altro spinotto per beccare la cosa giusta. Beh, lo sai che ha avuto il culo che era giusta, che era uguale uguale a quella che avevo io. E guarda, io sono rimasto senza, perché non la trovo più. E infatti pure poco fa ho smontato un coso, uno spinotto che mi aveva dato lui, e ho preso una vittina. E vabbè, si la tronca in come te possa amare. Ecco, 2,50€ la GBC me l'ha fatto pagare uno spinotto a 4, 2,50€. E subito costava una cazzata, ma... Ma con la vittina o da avvitare? Quelli da avvitare? No, quelli con la vittina, quelli da avvitare sono qui, quindi non esco. No, la vittina mi serviva solo, la vittina. Mi serviva solo la vittina. Per mettere quel microfono che tu l'hai persa, l'hai messo un altro, però deve essere che non ha avvitato quella, è come... E l'ho persa, capito? Io stavo cercando, io di solito le trovo con la scopa. Una volta, ma con quella dello spinotto trovo. Sì, vabbè, pazienza. Lu, sei mancato di radio di nuovo. Cazzo! Abbassa poco a poco il macchinino e il volume del microfono, abbassalo appena appena. Guarda un po'. No, adesso è a 3, guarda un po', prova. Adesso... Che palle, Lu. Capito, lo fa ogni tanto io... Io praticamente l'ho lasciato agire, come agito non l'ha più fatto. Era povero, mi ho spruzzato l'aria prima e poi l'ho messo CRC. Vabbè, quello che ci bucquarà. Vabbè. Ah, bello, c'ha il coso del canale in rosso, mi piace un bel, la verità. Ma c'è quello là è verde, non mi piace, questo è rosso sì. Il numero del canale? Il mio è rosso, il tuo? Io ce l'ho rosso lo stesso. Però ci sono quelli che ce l'hanno azzurro. Anche azzurro è carino, ma rosso, ma verde non mi piace. No, verde no. Mi piace molto. Ho il rosso o blu. Il blu mi piace di più, però io c'ho tutto il blu qua. Adesso fra poco mi metterò anche le luci nel Galaxy blu. Quando si fulmina me la metto blu. E adesso già ce li ho i led, mi hanno fatti Luca Flip là. Per metterli nello smitter. Ne ho altri 3 e così li metto. Che colore? Bianchi. E non devi mettere blu. Vabbè, ho blu, adesso vediamo. Forse è blu, dai. Ma devo comprare la... Sto uscendo, sì. Ma poco però. Stai uscendo ma basta. Cazzo. Oh, adesso? Ora sì. Non è lo smotto, non la giugana già, vedi, non la giugana va. Sì, lo fai quando ne voglia. Probabilmente ho il PDT, io avevo fatto il PDT, l'ho tutto pulito, messo il CRC e poi praticamente anche i ricursori, tutto qua. Cazzo, aspetta, a Sassari, abusi sui minori, la sentenza, faceva violentare i figli da un pedofilo, allucinante, che schifo, cazzo. In epoca di anche malata. Quelle non sono persone sane. Io per mio figlio darei la vita, che a te quello va a farsi rifare dei piruffi, blu. Gente di merda proprio. Ui, gente che i figli si fa di così da tutto farsi. A voi non ricagare ne manco. Vabbè, comunque sei soddisfatto, dai. In linea di massima, no? Ma non l'ho sentito con l'altro microfono. Già, insomma, un po' così, da, sono sincero, perché lui mi ha detto non c'era un graffio, cioè, come se io ti vendo la radio e dico non c'è un graffio già, tutta la guardia c'ha tutti questi graffi, ci siamo le balle, io dico fatto come te, pignolo. Lo so, anche a me dà fastidio, a me, praticamente, che colore è opaco, no? Sì, è opaco, c'è una popolarità di opaco. Aspetta un attimo, ti ho attaccato l'altro microfono, non so come mi sta giù il busso. faccio un pacco ad alte temperature. Sì, quello va bene, quello ad alte temperature, quello va bene nelle marmite. No, va bene per tutto, anche gli apparecchi che scaldano. Guarda, questo qua è il microfono, quello presidente. Già. Sì. Ho detto, questo qua è il microfono del del presidente Jackson sicuramente, boh, non so cosa dica il presidente. Beh, esce bene. Ah? Sì, sì, capo adesso. Stai addormentando già? No, un po'. Un po' lì dentro, infatti adesso anche io mi sdraio, un po' sempre riposo, va. Tanto la 25 è andata al mare, io non avevo voglia, là. E niente, no. Magari ci sentiamo stasera, lui ti riposi anche tu un po' già. Sì, Kappa Kappa, ci sentiamo lui. Stammi bene. Ehi, ciao. Se lo vuoi fare lo facciamo. Ehi, adesso no, no, gli va nuda già. Andare. Magari lo faccio in cortile, fuori. L'ho fatto al chiuso, so se prendessi riempie di polvere, l'avrei fatto anche io, già lo so fare anche io, non è che non lo so fare. Solo che vabbè, gli altri tappi del Typhoon li avevo fatti così, le vigate pernicciati. Sicuramente la vernice non ha asciugato bene, come gli appoggiavo il microfono da tavolo e sono rimasti i segni dei piedini. Sì, è una vernice doppia, questa si è asciugata subito, come gliel'ho messa con lo stecchino si è asciugata. Immagino, vabbè, da, comunque non mi piace lo smite di figurone, sono abituato al bianco, da. Adesso vediamo uno di questi giorni, o glielo metto blu o glielo metto bianco. Vabbè, a stasera già, più tardi, ciao. Ciao, ciao, bianco ghiaccio, ma è più bello blu, è più bello blu. Ma che tu giallo non mi piace, ma. Ma cammina. Che beh. Andare, ciao, ciao. Ciao.